Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. È iniziata la seconda parte del quinto volume di Eclettica, quindi l'ultima della settimana, in quanto Eclettica è composta da 5 volumi alla settimana di un'ora ciascuno, poi disponibili anche in podcasting, oltre che essere trasmessi dal lunedì al venerdì alle 19 fino alle ore 20. Giulio Caperdoni, che è raggiungibile per ulteriori dettagli all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, e che ha chiuso la prima parte di quest'oggi con Ungdomsskulen dalla Norvegia e poi con Pterodactyls assieme alla voce femminile di Kimia Dawson, e ha aperto la seconda parte invece con un estratto da In Rainbows, l'album di cui tanto si è parlato da parte di Radiohead, ovvero sia Videotape, e che prosegue con una formazione che con il quinto album ha deciso di cambiare nome, o meglio di accorciare nome, visto che fino al quarto il nome era Say Hi to Your Mom, formazione di Seattle capitanata da Eric Elbogen, che ha deciso di abbreviarsi in Say Hi per la quinta pubblicazione The Wishes and the Glitch, che esce per Euphobia Records, dalla quale vado ad estrarre Northwestern Girls. Trusting you guys, all right? Now, if you don't do what I say, you can end up like your little buddies in the Mayan world over there, locked up. Take a look. Do they look happy? No. They look sad. Because they can't do what they want to do. Now, I'm letting you guys have a little bit of leash here. Don't choke me with it, okay? Thank you. Il tassista parve imbarazzato quando vide che non c'era nessuno, nemmeno un portiere dietro il banco della reception ad accogliermi. Attraversò l'atrio deserto, forse sperando di scoprire un dipendente dell'albergo nascosto dietro una pianta o una poltrona. Alla fine posò le mie valigie accanto alla porta dell'ascensore e, borbottando una scusa, mi lasciò. L'atrio era abbastanza spazioso perché i numerosi tavolini da caffè sparsi in giro non dessero una sensazione di affollamento, ma il soffitto, basso e visibilmente incurvato, induceva una lieve claustrofobia. La luce, sebbene fuori splendesse il sole, era tetra. Questo era l'incipit de Gli Inconsolabili di Kazuo Ishiguro. When you play past the puzzle with human body parts, somebody might get hurt, but someone will get hurt. And I sing what you like if you shout it straight back at me. Things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blur smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. But the fresh air was better, and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over the place, and on the bed, cherry egg, we throw parties, you throw knives, it's all the same if the fizzy drinks are nice. There's red stains all over the place. Stiamo per chiudere per il weekend, però voglio chiudere alla grande con un pezzo molto intenso, quello su cui vi saluterò. Prima vi voglio però ricordare quanto vi siete ascoltati, prima la lunga Hunt Like Devil da parte dei Cave da Chicago e poi invece We Throw Parties, You Throw Knives da Cardiff, nonostante il nome. Infatti loro si chiamano Los Campesinos con il punto esclamativo in fondo al nome. Ultimo brano che è a nome di Stephen R. Smith, di solito si presenta con uno pseudonimo alla strana e nonostante quello pseudonimo nasconda dietro di sé solo Stephen R. Smith stesso, in questo caso ha deciso di usare, non so per quale motivo, non ho trovato tracce, indicazioni su questo, il suo nome di battesimo. A lui l'onore di chiudere Eclettica con Whistling. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 13, volume numero 5. Indice: Hello Blue Roses, Lady Hawk, Lumerians, Ungdomsskolen, The Pterodactyls assieme a Kimia Dawson, Radiohead, Say Hi, Cave, Los Campesinos, Stephen R. Smith. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.